Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, due vittorie della Juve e due pareggi. E questo dunque alla fine il bilancio stagionale dei quattro confronti diretti tra le due squadre che stanno dominando la stagione, il che significa per la Juventus da un lato la finale di Coppa Italia, col Napoli o col Siena stasera lo vedremo, dall'altra lo scudetto in caso di arrivo a pari punti proprio per via dei confronti diretti. Buongiorno e bentornato ad Adalberto Bortolotti. Ciao Gigi e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Senti, la prima domanda è molto semplice. Può cambiare qualcosa il verdetto di ieri sera nella corsa allo scudetto da un punto di vista psicologico? Ma io non credo. Non credo che sia determinante. Penso che il Milan tutto sommato sia soddisfatto di come la squadra ha reagito in campo. E dal punto di vista formale il tuo ragionamento statistico era ovviamente ineccepibile. Però se ieri fosse stata una partita singola l'avrebbe vinta il Milan, cioè al 90esimo è finita 2-1. Ecco. Poi facendo parte di una competizione d'andata e ritorno, ovviamente lo stupendo gol di Vucinic nei supplementari l'ha portato dalla parte della Juve. Quindi io non credo che il Milan possa soffrire di un complesso, direi che nelle ultime due partite, quella dell'1-1 in casa, in campionato, e questa di Coppa, non abbiano scalfito le certezze rossonere. Ecco, vorrei però, facevo così una considerazione guardando questa classifica, che 4 punti a 10 giornate dal termine sono tantissimi, e sono figli del nuovo punteggio, nel senso che se si fosse fermi alla vittoria da 2 punti, le due squadre sarebbero perfettamente alla pari. Esatto, e non è una riflessione da poco, vuol dire che è come se la Juventus di Conte, ma questa è una battuta, non avesse ancora metabolizzato, però sono passati quasi 20 anni, il discorso della vittoria per 3 punti, poi in realtà non è così. Esatto. No, non è così, perché la Juventus anzi gioca in una maniera molto aggressiva e mai speculativa, sì. No? E quindi è un paradosso, direi. È la dimostrazione che il calcio non vive di soli numeri e che ad affidarsi solo agli score si può andare incontro, sì, a delle valutazioni superficiali. È vero. In effetti la Juve ha un gioco molto più aggressivo, a ritmi più alti, però ha pareggiato 14 volte. E poi l'altro paradosso, sì, apparente, ma forse questo con qualche più fondato motivo tecnico, è che la Juve, essendo imbattuta in assoluto, è ovviamente imbattuta negli scontri diretti con tutte le grandi del campionato, no? Ed ha vantaggio in pratica con tutte, perché quelle in cui ha giocato la sola andata mi pare abbia pareggiato in trasferta, cioè con la Roma e con Napoli. Però ha lasciato una quantità impressionante di punti nelle partite contro le squadre di seconda fascia. Sì, perché? Cioè, pareggiato col Bologna in casa e fuori, col Chievo in casa e fuori, col Siena in casa, col Cagliari in casa, con Genoa e Parma fuori. Catania ambisce magari a qualcosa di più, adesso però pareggio anche a Catania. Vale a dire, è stata forte coi forti e un po' debole coi deboli. Sì, è vero, è verissimo. Senti, di passata prima hai parlato dello stupendo gol di Vucinic. Ecco, questo è un giocatore, a parte il fatto che adesso da qualche settimana, qualche tempo, è veramente in grandi condizioni. Quando la mia sensazione, a me ricorda Cantona, ma non da ieri, da parecchio tempo, cioè un giocatore di grande personalità che svaria un po' su tutto il fronte avanzato, e ti dà l'impressione, ormai in età matura, che se ne avesse avuto un po' più di voglia, questo sarebbe stato un grande campione. Ecco, io credo che la radice slava un pochino centri, perché noi abbiamo visto grandissimi campioni veri fuori classe che ci siamo trovati poi a dire se avesse avuto un'altra continuità, un'altra concentrazione. Forse questo genio regolatessa, non voglio addentrarmi in teorie etniche, ma un po' risente delle origini, sì, perché ne abbiamo visti tanti di questi giocatori slavi che sarebbero stati i migliori del mondo se non li avesse talvolta traditi, appunto la concentrazione, cioè, quando è in forma Vucinic è un giocatore straordinario, trepidante, bellissimo da vedere, sì. Ieri ha fatto una partita al di là del grande gol, ma andava via tutte le volte con una facilità. È anche un giocatore di enorme eleganza proprio, ma sì, è vero, di enorme completezza, perché no? Fa il gol da 30 metri, dribbla, fa assist, giocatore assolutamente perfetto. Sì. Ti fa rabbia quando magari lo vedi bighellonare un po' ai bordi della partita, ecco. Non c'è dubbio. Avesse avuto il temperamento, no? Ma tanti di questi slavi, Stojković, sì, piuttosto che Savicevic, piuttosto che ma chissà quanti ancora, sì, ma tornando indietro, sì, anche sì, a nome sì, degli anni 50, Sekularac, gente sì, che ricorda. Avrebbero, cioè, se avessero avuto la metà del temperamento che hanno gli argentini, che hanno i grandi sudamericani, io credo che, no? Certo. E così arriviamo, poi torniamo a Juventus e Milan, così arriviamo a questo pazzesco primato di Messi, perché diventare più grande è... A 24 anni, a 24 anni. Che fa sorridere è che ha 24 anni, è il bilancio di un ultra trentenne, insomma. Ecco. Sì, perché, non so, Del Piero, per esempio, ha battuto 2 anni fa, mi pare di ricordare, il primato di gol di Boniperti, aveva 35-36 sì, anni, cioè è come è normale, no, che accada ai grandi giocatori. Questo a 24 anni ha superato il primato di gol, non del con tutto rispetto del Palermo, no, o del Chievo o dell'Atalanta, no, del Barcellona, dove qualcuno discreto ha giocato, no, nel tempo. Sì, c'è stato qualche cannoniere di passaggio più o meno, no? E quindi è chiaro che questo è davvero qualcosa di... Allora, onestamente, quella partita con i 5 gol in Champions, vedere fare un gol in corsa con pallonetto di sinistro nell'angolo destro e con poi di destro nell'angolo sinistro, sì. Tutto con un'estrema naturalezza, gli vedi fare cose. Io, cioè, i paragoni sono chiaramente antipatici, poi ognuno è affezionato ai campioni della sua epoca, però la facilità che ha questo giocatore a rendere semplici le cose più complicate, e soprattutto in fase realizzativa, che è quella più delicata del campo. A me impressiona, io non li trovo onestamente, non mi ricordo gente così. Ecco, non mi ricordo gente così, è già una... Poi è chiaro che Maradona era un leader e lui non lo è, certo, era un uomo squadra, un uomo certo, che vinceva un mondiale con un'Argentina da ottavi a essere larghi, ecco. da caricarsi in spalla. Questo va considerato, mentre lui in nazionale ancora non si è espresso. Però sul piano puramente così tecnico, io non me ne ricordo altri. Molto bene, allora primo intervallo di oggi, poi torniamo un po' su Juventus-Milan e anche sulle prospettive di questa volata finale, alla luce soprattutto di quello che si è visto ieri sera. Mi corregga se sbaglio, scrive Lori da Milano, ma Vucinic è stato lanciato da Zeman a Lecce, ed è la verità, e credo che in quella sua capacità, facilità di tagli, no? E di incroci in zona offensiva ci sia la mano di uno che adesso sta facendo l'ennesimo grande lavoro per attaccanti, per esempio come Immobile. Adalberto, ieri sera ho letto da qualche parte, dopo non so se ci sia o meno già conferma, che la Juventus ha già comunicato alla Roma di non voler riscattare Boriello, e insomma già il fatto che l'avesse preso, secondo me, era abbastanza inquietante di per sé. Immobile è di proprietà della Juventus. Ma ho sentito con una trasmissione, quindi non voglio appropriarmi di considerazioni altrui, però una considerazione che condivido in pieno, cioè che gli acquisti di Toni e Boriello avendo Immobile sono perlomeno singolari. Ecco, poi è chiaro, Immobile è ancora tutto da fare, però ha fatto dei gol B o A, quando fai certi gol la stoffa c'è. Ah, certo. Poi la fortuna è capitare appunto in mano a Zeman, che come forgia gli attaccanti lui non ce n'è altri, ecco. Assolutamente, dategli un attaccante di talento e Zeman lo perfeziona e lo migliora, e poi quello che gli insegna rimane a questo giocatore, no? Perché poi non è che funzionino solo a Foggia una volta, o a Lecce, o a Pescara, o dove gli è capitato. Dopo, dopo rimane. Se potesse avere un allenatore per la fase d'attacco, uno per la fase di difesa, eccetera, Zeman per la fase d'attacco sarebbe il primo al mondo, io penso. Comunque fu scoperto da Corvino, mi informa Franco Piantanina, nel 2000, nel 2004 e 2005 esplose con Zeman con 19 gol in quell'anno, miglior marcatore straniero, e quindi infatti si è un po' perso a Roma questo, forse adesso si sta ritrovando. Poi secondo me non cerca il gol con l'ostinazione dell'attaccante di razza, ecco, cioè sembra che non gli interessi molto, preferisse magari farne uno bello che tre banali, ecco, sì. Non lo so, mi dà l'impressione che non debba essere valutato appunto con le cifre dei gol, perché volontariamente o meno, coscientemente o meno, lui rinuncia a farne molti nell'arco di una stagione. Certo. Quello che hai detto adesso lo disse Zeman nell'estate del 2011, leggo sempre le informazioni che mi arrivano dalla redazione in tempo reale. Vucinic, disse Zeman un anno fa, non ha ancora capito adesso che potenzialità potrebbe avere. Ha capito che sarebbe uno tranquillamente da fare 20 gol all'anno, ecco. Certo. E ne fa magari 8-9, sì, giocando bene, ecco. Senti, dato che alcuni ascoltatori ci sollecitano un'analisi un po' più approfondita, perlomeno in parte, di ieri sera, allora te ne butto lì una io, e però sentiamo la tua opinione. Il Milan mi ha dato l'impressione ieri sera di voler fare una, anche per la formazione scelta in partenza, poi l'assenza eccetera, ha dato l'impressione di voler fare più che altro una decorosa figura. Quel gol di Mesbah assolutamente avventuroso, perché il pallone di Maxès 90 su 100 era per Maxi Lopez, il lancio era sbagliato di 10 metri e Mesbah non si capisce perché è andato a fare quel taglio, l'ha incornato benissimo eccetera. Cioè una lettura un pochino più minimalista rispetto ai trionfalismi da telecronaca Rai che ho sentito. Infatti io penso che il trionfalismo sia del tutto fuori luogo, perché il Milan è andato probabilmente oltre ai suoi progetti, e le dichiarazioni a fine partita di Allegri in fondo erano importanti, a grande soddisfazione, insomma, aveva avuto più di quello che si attendeva. Il Milan, poi la sostituzione di Ibrahimovic a metà tempo, col tutto che Ibrahimovic non fosse, testimoniavano anche il valore di prova, decorosa prova che il Milan dava alla partita, ma in un momento in cui allo scudetto nel mirino è una Champions che gli oppone il Barcellona, la Coppa Italia non poteva richiedergli una mobilitazione di tutte le forze, certo. Anche logicamente. Logicamente. Credo che il segnale definitivo, perché il fatto di aver tolto Ibrahimovic vuol dire fino a un certo punto non stava bene, ha problemi di salute. Probabilmente io credo che se Allegri avesse potuto non l'avrebbe fatto giocare pure dall'inizio. Appunto. Poi Ibrahimovic magari ci teneva, lui si diverte a farsi fischiare, lo rimpiange. Sì, certo. Quindi l'ha voluto giocare, ma in effetti il Milan ci ha guadagnato quando è entrato Maxi Lopez. Non c'è alcun dubbio. Ecco, invece ci ha riperso, direi in maniera definitiva, schierando Inzaghi. Allora la domanda su Inzaghi, la riflessione è questa: si può essere stato un grande giocatore, come un grande attaccante, come indubbiamente è stato Inzaghi, e poi a 39 anni, dopo aver smaniato per settimane e per mesi per voler giocare una partita a ogni costo, si può poi denunciare mestamente, no, tristemente, l'anagrafe prima con i problemi di stomaco, poi con lo stiramentino finale? Cioè io trovo che sia parabole tristi. È vero? Inzaghi, cioè, non credo meriti di appannare quell'immagine di feroce cacciatore di gol che l'ha accompagnato. Feroce cacciatore di gol è bellissimo, è vero? Sì. Con acciacchi molto normali, insomma, la fare di stomaco che prende un debuttante, insomma, roba del genere, oppure lo stiramentino al primo affondo. Sì, è triste però. No, a questo punto meglio lasciare. È triste, no? A me ha fatto un po' la figura, mi ha suggerito un po' l'immagine. Inzaghi proprio del pensionato tout court, no? Mentre due prepensionati come Seedorf e Del Piero, la loro parte più che decorosa la fanno ancora. Guarda, insomma, io no? Quando prima parlavamo di tutti questi pareggi, io ho una mia teoria, non vuole assolutamente scontrarsi con le scelte di Conte, che fra l'altro sta facendo una stagione fantastica, certo. Per carità. Però certe partite con squadre non di altissimo livello, cioè, per me Del Piero è stato sottoimpiegato. Del Piero all'alta fine, magari. Ecco. l'ultima mezz'ora l'ha fatto lui, certo, cioè, certo. Voglio dire, ci è arrivato lui su quel pallone, sì, sì, sicuro. Tra tanti così cacciatori di gol, tra cui per esempio il Boriello del secondo tempo mi è sembrato imbarazzante, involuto in una maniera, sì. Il fatto poi che tutti lo abbiano tranquillamente lasciato partire, tutte le ultime squadre che l'hanno avuto, qualcosa vorrà pur dire, no? Senti, un ascoltatore da Fano, Alessio, ci ricorda che anche Nocerino è passato per Zeman ad Avellino, no? Quindi, tanto per completare un po' il quadro Poi per ritrovare la vena del gol nel tempo. Ha preso una strada lunga. È vero, ha preso un po' di circonvalazione, ma ci è arrivato. Se lo portava nell'istinto, insomma. Non c'è, è vero, è verissimo. Quindi siamo d'accordo anche su questa, direi, su questa impostazione. È giusto che la Coppa Italia dia queste cose e forse può aumentare gli impianti, oppure suggerire un finale diverso a Conte, perché insomma la mezz'oretta, i 20 minuti. Io credo che fondamentalmente sia aperto. Che il Milan risulti favorito logico mi pare altrettanto indiscutibile. La grossa incognita è questa Champions che sicuramente assorbe energie mentali oltre che fisiche, però il Milan ha molta gente nella riserva adesso, sì. No? Sì. Da buttare nella mischia. Il calendario mi sembra sostanzialmente, teoricamente mi pare che la Juve abbia 6 partite in casa e 4 fuori, se non sbaglio. Ma anche il Milan, sai, credo. Il Milan sarebbero 5-5, ma c'è il derby. C'è, no? Il derby, sì. Tra le trasferte, sì. Quindi sì, si gioca in casa. Alcuni avversari sono in comune, insomma, non credo che la differenza sia lì. Il Milan, secondo me, mi conferma in un'opinione che mi sono fatta all'inizio: fa meno fatica a vincere, ecco, rispetto alla Juve. La Juve deve sempre dare tutto per vincere. Sì, è vero, verissimo. E ci riesce meno frequentemente. Deve aggredire l'avversario, stritolarlo ad alti ritmi, eccetera. Il Milan va più in souplesse, è capace di vincere in souplesse. E aggiungerei quest'ultimo dettaglio, Alberto, che quando 3 settimane fa circa si è risvegliato un caldo precoce, la Juventus ha pagato un paio di partite di condizione non all'altezza. Sì. Poi è ricomparsa, però, ecco, per esempio. Ma è ricomparsa anche un po' d'inverno, però. Sì, difatti. Teniamo conto. Ecco, sul pomeridiano, con l'arrivo dei primi caldi, correndo a questa maniera, qualche. È una squadra che corre tanto, anche la Juve ha molti giocatori, però quelli fondamentali mi sembrano molti, ecco, molto. Non è che possa eccedere in cambi. Quando lo fa, in specie in attacco, ci rimette, e si vede, insomma. Beh, una bella notizia, Alberto. Una bella notizia. Meno male. Per chiudere questo nostro collegamento e darti appuntamento presto ad una prossima occasione. Senz'altro. Grazie. Grazie ancora una volta a un maestro di calcio e di giornalismo sportivo come ad Alberto Bortolotti. Un po' di posta, cominciamo dalle mail. Scrive Fabio Locati da Fermo: che piacere sentir parlare una persona come Bortolotti, competente, mai banale, poetico ma anche pratico. Non c'è dubbio su questo. Agostino Ghiglione da Roma mi segnala invece che dal gennaio 2012, cioè dall'ultimo mercato, Immobile è al 50% tra la Juventus e il Genoa e quindi è un giocatore in comproprietà. Poi arriviamo invece a qualche sms. Lorenzo da Parma dice: secondo voi chi è tra Baggio e Del Piero il più grande calciatore italiano degli ultimi 20 anni? Per me nessuno dei due. Io sono per, se parliamo degli ultimi 20 anni, sono per scelga lei tra Buffon, Paolo Maldini e Totti. Dopodiché, a sentir parlare Bortolotti resto esterrefatto. Peccato doverlo centellinare, scrive Franco. Sì, peccato, una scelta, perché uno come Bortolotti va disturbato, no, dalla sua quiete soltanto una volta ogni tanto. Dunque, ce n'erano altri. Perché non hanno espulso Mexès? Domanda Giacomo da Vercelli. Io sinceramente, perché non hanno espulso Aquilani? Mi porrei questa domanda. Perché non hanno espulso Vidal? Mi porrei anche quest'altra domanda. Perché non hanno espulso Mexès? Sinceramente, Mexès nel primo tempo si è espulso da solo, no? Giocava con la macchina fotografica a tracolla e ha deciso di sudare solo nel secondo tempo perché era entrato il suo compare Boriello e quindi si divertivano a a menarsi, ma insomma, prima mi sembra fosse davvero poco pervenuto. Massimo Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma in merito alla partita di ieri sera, no? Volevo sottolineare che secondo me sono emersi proprio tutte le qualità e i limiti di questa Juve. Secondo me è una squadra che comunque non può permettersi di lasciare il pallino in mano all'avversario, neanche un quarto d'ora. Cioè, ieri il Milan nel secondo tempo si è trovato sul 2-0 senza aver fatto praticamente nulla. Uh-huh. Ma proprio nulla, nel senso che sembrava quasi involontario, ripeto, soprattutto sì, il primo gol. Se analizziamo, perché non è stata data molta enfasi in quel lungo, doloroso per noi tifosi, rosario di pareggi, è stato enfatizzato molto il fatto che la squadra non segnasse, però sulle partite casalinghe, anche su alcune vinte, c'è stato sempre quel quarto d'ora dove, certo, tutti davano l'impressione di poter far gol e puntualmente lo facevano. Sì, sono stati parecchi 1-1, mi ricordo anche la partita con la Fiorentina, poi è stata rimediata, l'Udinese, però si ha sempre la sensazione che quando la palla sia da questa parte. E poi mi permetto un'osservazione sul secondo gol, bellissimo gesto di Maxi Lopez, però sulla coppia della nazionale qualche perplessità in quella zona del campo rimane, due buoni giocatori ma non... Beh, certo. Non difensori centrali di un certo livello. No, no, su questo siamo d'accordo, però riconosciamo almeno la prodezza, cioè Maxi Lopez, che era entrato da non molto e che fin lì aveva un pochino sonnecchiato, pur avendo dei movimenti indubbiamente interessanti, ha trovato comunque una prodezza. E allora sì, è vero, i due centrali nel giro in un fazzoletto di terra possono e devono anche far meglio, però va almeno riconosciuto che l'altro ha fatto un grande colpo, ecco, questo mi sembra di sì. Alberto Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, sono tifoso juventino e volevo sempre esprimere una mia opinione in merito alla partita di ieri, che secondo me comunque, se fosse stata una partita a sé stante, non è detto che la Juve l'avrebbe persa, perché l'atteggiamento magari era diverso, avrebbe magari imposto di più il proprio gioco. Comunque volevo anche esprimere la mia opinione e non so, tra virgolette, anche un appello nei confronti di mister Antonio Conte, che comunque mi sta facendo rivivere delle bellissime emozioni e volevo fargli complimenti, però una chicca secondo me, anche magari per la prossima stagione, visto che quest'anno il Milan la vedo dura che possa mollare ancora qualche punto per la lotta dello scudetto, e che quando magari ci sono delle partite un po' congestionate con... Vabbè, deve giocare Del Piero qualche minuto in più, così almeno era qua che voleva arrivare. No, io non discuterei il giocatore da mettere, ma più che altro è cambiare l'atteggiamento, il modulo, magari di togliere un centrocampista o un difensore e mettere una punta in più. La punta in più, non necessariamente Del Piero. Mi scusi Alberto, ma ci sono i centralini intasati, stavo solo cercando di sintetizzare e ho provato ad anticipare sbagliando stavolta. Paolo Siena, buongiorno. Buongiorno, senta, io vorrei chiedere a Scolea, a tutti questi collaboratori che fanno queste bellissime statistiche, di Ibrahimovic. Secondo me, quando incontra difensori della sua stazza e abbastanza aggressivi, non lo vedo determinante come in altre situazioni contro piccole squadre. Per esempio, io mi sono partito contro Manchester United, la stessa Juventus, qui in cui si scontra sempre Occhiellini, Barzagli, Lucio. Sì, non è che sia sta grande novità, Paolo, che Ibrahimovic è più forte con i deboli di quanto non sia, no, di quanto non gli riesca invece con i forti. Però lei ha detto i più prestanti, insomma, ha usato, non mi sembra un problema fisico, mi sembra un problema di personalità sua, probabilmente, che è straripante quando c'è un margine davvero notevole di classe, di esperienza nei confronti degli avversari, e invece questo margine si riduce molto quando sono avversari di un'altra levatura, insomma. Ma ripeto, non è che sia inedita l'osservazione. Giuseppe, provincia di Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. buongiorno. Dica. Senta, io volevo intervenire riguardo all'ormai annosa questione degli episodi arbitrali. So che magari non è un argomento che possa piacere molti, però... No, ma è il mercoledì più che altro, sa? Perché... No, vabbè, io in realtà era qualche giorno che provavo a telefonare, ma volevo fare... In realtà io volevo spezzare una lancia a favore degli arbitri, o quantomeno... Per spezzare una lancia siamo sempre qua, no? No, nel senso che a me sembra assurdo continuare a dover discutere ogni lunedì su degli episodi arbitrali che sono francamente molto difficili. Mi riferisco soprattutto agli episodi dei fuorigioco. Io le porto solo un esempio molto breve. Sabato ero a Parma a vedere la partita Parma-Milan. Non c'entra col fuorigioco, ma per dire quanto difficile è poi mettersi nei panni dell'arbitro. Io dalla tribuna e molti a fianco a me, perché mi sono confrontato con altre persone, non ci siamo resi conto che Zaccardo avesse toccato la palla con la mano. Poi guardandolo in televisione era sembrato una cosa sì, palese a tutti, però era per dire quanto determinati episodi visti alla moviola e visti poi nel campo sono due cose... Certo, Giuseppe, tenga anche conto però che l'arbitro non sta in tribuna, l'arbitro sta in campo e deve, cioè, e corre apposta per essere vicino ai luoghi dei misfatti, no? E quindi... Pur restando la difficoltà di decidere su episodi di non semplice decifrazione, beh, insomma, però l'arbitro ha una vicinanza, un'esperienza, una dinamica che lo portano a giudicare. E comunque non sarà certamente questa la tribuna, la postazione, la panchina. Scelga lei l'immagine che preferisce, dove si dice che gli arbitri non dovrebbero sbagliare o non devono sbagliare. C'è qualche tipo di errore che si fa più fatica a capire. Per esempio, io non capisco ieri sera come Orsato, con questa sua direzione molto, molto interessante, probabilmente lui oggi è il miglior arbitro italiano o comunque uno dei più in forma, non c'è dubbio. Lui lascia molto correre, lascia molto scorrere il gioco, però ogni tanto bisogna essere un tantino meno tolleranti. Cioè, quello di Aquilani su Vucinic è non solo un fallo grave plateale, ma è soprattutto un fallo di reazione, perché Aquilani ha perso stupidamente la palla a 10 o 15 metri dalla linea laterale e probabilmente, forse Vucinic gli ha fatto un mezzo falletto, e allora lui a quel punto va a stirarlo in quella maniera e a spedirlo contro i tabelloni pubblicitari proprio per un fallo di reazione. E lì c'è un solo colore di cartellino, non ce ne può essere un altro, che è lo stesso che andava mostrato a Vidal per il fallo da dietro su Emanuelson. Ecco, io credo che quelle siano episodi facili da giudicare, no? Lì non è difficile per un arbitro, lì subentra un altro parametro negativo, che è il buonismo a tutti i costi, soprattutto con i giocatori delle grandi società che non sono felicissime di vedersi i giocatori squalificati. Fausto Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, volevo dire semplicemente che il giornalista che ha parlato all'inizio ha detto che se fosse stata una partita unica sarebbe passato il Milan, ma dato che la partita unica l'avrebbe vinta la Juventus, il Milan ieri sera dovrebbe neanche esserci. Vabbè, a monte questo. No, ecco, comunque, perché in realtà, insomma, adesso che lei mi faccia le pulci ad Adalberto Bortolotti, andiamoci pianino. Lui ha detto prima una cosa diversa dalla sua, ma non sprecherei dell'altro tempo. Dica la seconda. Ascolti, comunque voglio dire che secondo me è un grande limite che ha la Juventus oggi, a parte che magari segna poco così, però Bonucci è una roba assurda. Nella Juve Bonucci, proprio, non so, io un'altra squadra lo manderebbero a casa, secondo me, perché fa di quegli errori pazzeschi, cioè non si può fare gli errori del genere. Vabbè. Nicolò da Mantova, Maldini passi, ma se lei mette Totti prima di Baggio e Del Piero allora perde tutta la mia stima. L'ho persa, Nicolò, pazienza, spero di riconquistarla eventualmente in futuro. Marco da Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Una considerazione su come il Siena, io sono il primo tifoso del Livorno, come il Siena sta preparando, ha preparato il ritorno della semifinale di Coppa Italia a Napoli. Cioè, di fronte, quello che mi chiedo è, di fronte a un traguardo storico, cioè che può proiettare non solo per la prima volta il Siena in finale di Coppa Italia, ma anche in Europa, Sannino, quindi probabilmente anche su indicazione del suo club, della sua società, fa, non dico un ampio ricorso al turnover, ma un discreto ricorso al turnover. Ma non le sembra tutto questo assurdo? Cioè, io mi chiedo, non è che anche in queste cose si vede perché il calcio italiano è in crisi? No, io non farei, non salterei alle conseguenze in questa maniera. Una società deve badare innanzitutto alla sostanza. La sostanza è partecipare alla Serie A, perché tra Serie A e Serie B c'è una bella differenza, c'è una differenza molto più ampia che non tra una finale o meno di Coppa Italia. La seconda squadra del Siena all'andata ha vinto 2-1 col Napoli, no? E se la mettiamo sugli episodi, come dice Mazzarri, se la mettiamo sugli episodi, certo il Napoli poteva anche segnare qualcosa di più, ma pure il Siena però, e soprattutto il gol del Napoli è un regalo del Siena. Quindi io non vedo questa rinuncia a prioristica, credo che il Siena proverà a vendersi cara la pelle, ma realisticamente penso anche che il Siena continui a pensare che l'obiettivo salvezza è più alla portata che non la vittoria un'eventuale vittoria in Coppa Italia, dovendo stasera reggere l'urto del Napoli e poi battere in finale la Juventus. Io trovo che non abbiano tutti i torti a Siena, fermo restando, ripeto, la bella figura che le seconde linee senesi hanno fatto nella partita d'andata. Il 21 marzo di Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 marzo 1987. Dopo una trattativa complessa ma in anticipo sui tempi, il Milan annuncia l'acquisto del fuoriclasse del PSV Eindhoven, Ruud Gullit. Pochi giorni prima, la società rossonera aveva messo a segno un altro colpo, assicurandosi il centravanti dell'Ajax, Marco van Basten. Assume così fisionomia un Milan a trazione olandese, di cui il tecnico Nils Liedholm, da grande uomo di calcio, intuisce subito le potenzialità. Con Gullit e Van Basten, dichiara l'allenatore svedese commentando il duplice acquisto, il Milan potrà organizzare il gioco a proprio piacimento. Schemi per giocate in orizzontale e verticale, lente o veloci, insomma, ci sono le premesse per una grandissima squadra. Una grandissima squadra che però Liedholm, che sarà esonerato poche settimane dopo, non avrà la possibilità di allenare e che finirà affidata a sorpresa ad Arrigo Sacchi. La Commissione europea, leggo da un dispaccio dell'ANSA, ha dato oggi via libera alle regole varate dall'UEFA per evitare il doping finanziario, riconoscendo che le norme sono in linea con quelle della UE sugli aiuti di Stato. E questo sarà uno degli argomenti affrontato domani, nella puntata di domani, con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, anche se l'argomento portante di domani sarà, io credo, più ghiotto tutto sommato, e cioè riguarderà gli arbitri non da un punto di vista tecnico, ma dal punto di vista dei loro, come dire, incassi. Quanto guadagnano davvero gli arbitri italiani. Andrea, chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno Granzini. Dica. Niente, la mia opinione si aggiunge praticamente all'impressione che hanno già avuto altri ascoltatori. Sono un tifoso juventino e dopo la partita di ieri ne vince chiaramente che lì davanti in attacco comunque manca un uomo di peso. Spero di non dire qualcosa fuori dal normale, ma come sta andando la Fiorentina e un Genova non tanto alle stelle, io ci vedrei benissimo un Palacio e un Jovetic lì davanti, e io non penso di dire una cosa così fuori dal mondo, Poi magari mi corregga, per carità. No, io non la correggo. Se si parla di mercato, io non tanto più parlandone a marzo, io sinceramente non mi permetto di correggere nessuno, semmai di ricordare, di segnalare che il Marsiglia è stato eliminato dalla Coppa di Francia nei quarti di finale ad opera del Quevilly, che è un club di terza divisione, 3-2 ai supplementari, che significa che l'unico risultato ottenuto dal Marsiglia negli ultimi due mesi è stata la vittoria e la sconfitta, ma insomma l'eliminazione dell'Inter, e quindi la qualificazione grazie all'Inter ai quarti di Coppa dei Campioni. Enzo Modena, buongiorno. Buongiorno Granzini. Anche per il ascoltatore precedente, gli argomenti sono stati trattati, però voglio, da juventino calabro modenese, voglio fare una polemica con Conte, perché veramente su Del Piero credo che lui stia prendendo veramente dei grandi granchi, perché dovrebbe farlo giocare di più. La mitica mezz'ora di cui parlavate prima con Bortolotti, grandissimo critico di calcio, sono d'accordo su quanto detto, sia sul Milan, sulla Juve, sulla visione del calcio in questo momento in Italia. Giusto proprio questa polemica con Conte, che apprezzo naturalmente per quello che ci sta facendo vivere, insomma, dopo anni di buio, le soddisfazioni che ci sta dando, però con Del Piero credo che dovrebbe Può fare un po' di più perché è un grandissimo giocatore, certo. Lo dimostra ancora. Conte deve mettere in conto che con le sue scelte, se deve affrontare questa polemica con Enzo, la metterà, che si rassegnerà a questo, insomma. Andiamo a Comoda, Franco, buongiorno. Buongiorno, signor Dica. Garanzini. Oggi vedo e apprezzo che, parlando di Juventus, la sento molto più sereno. Io in tutti i suoi interventi concordo, abbiamo qualche piccola discrepanza sempre sulla Juventus. Le volevo chiedere questo, a parte, diciamo così, gli scherzi. Sì. Io le ho fatto questa domanda quando la Juve di Ranieri doveva affrontare quelle tre partite dei 9 punti che avrebbero fatto un po' il salto di qualità, e così non fu perché ne fecimo solo uno. Lei come vede oggi impostata questa Juventus? Lei che di partite e di situazioni ne ha viste tante. Dopo questa seconda ricostruzione post Farsopoli, Calciopoli, che si voglia, come la vede veramente? Insomma, se vede delle basi concrete su cui lavorare. Grazie. Grazie a lei, Franco. Ha risposto a Iosa prima, un fuoriclasse della critica calcistica italiana come ad Alberto Bortolotti. Noi siamo in chiusura, quindi non c'è tempo per disamine approfondite, semmai per una curiosità che arriva dal Belgio, da Bruxelles, e cioè secondo un'indagine, insomma, a fine carriera, Eddy Merckx, per ragioni di cardiomiopatia ipertrofica, non avrebbe mai dovuto correre. Cioè, se avessero fatto gli esami che stanno facendo oggi agli atleti per dare l'idoneità agonistica, Merckx, il cannibale, il più grande corridore di tutti i tempi, non avrebbe potuto correre. E questo soltanto per dire che alla fine poi a decidere, con tutti gli sforzi che devono essere fatti dal punto di vista della prevenzione, però c'è poi sempre il destino a dire l'ultima parola. Franco Piantanini in redazione, Nicolò Rinaldi in regia, grazie a tutti, buon pomeriggio.